Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci alle 7:22 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi avremo ospite alle 8:15 Stefano Fassina del Partito Democratico, per capire quale sarà, insomma, una possibile soluzione a questo piano A, a cui ha fatto riferimento ieri Bersani per la composizione del nuovo governo. Oggi ci concentreremo invece alle 8:30 anche sul tema conclave e le accuse che vengono da più parti sulla presunta copertura di pedofili all'interno della Chiesa, perché oggi sui giornali ci sono anche altre novità. Ne parleremo questa alle 8:30, è uno dei temi che sicuramente è sullo sfondo dell'elezione del nuovo Papa. Ora andiamo appunto a capire cosa ci propongono i quotidiani in edicola. Intanto le aperture, il Sole 24 Ore ha una doppia apertura, diciamo così, il titolo principale sulla ecoburocrazia, l'Italia bloccata, così dice il presidente di Confindustria Squinzi, ma anche, come molti giornali, c'è il dramma al Monte Paschi Siena, si uccide il capo della comunicazione. Questa è anche l'apertura del Corriere della Sera, un suicidio nello scandalo Monte Paschi, si uccide il capo della comunicazione, era stato perquisito, e così Repubblica, Monte Paschi, suicidio shock, il capo comunicazione si lancia dalla sede della banca, si tratta di David Rossi. Libero, suicidio in Monte Paschi, morte e misteri nella banca del PD, questo è il titolo di prima pagina. La politica invece per la stampa, Bersani, il programma a Napolitano, il Messaggero, c'è un'intervista a Renzi, la legislatura sarà breve, questo è il titolo di prima pagina estrapolato dall'intervista. Caccia Silvio, PDL sveglia, così il giornale, mentre il Fatto Quotidiano accomuna questa vicenda del Monte Paschi, il portavoce di Mussari si uccide, ma in prima pagina anche quello che è successo in Umbria. Mancano i soldi, qualcuno spara, tre morti a Perugia. Questo è il titolo di prima pagina. L'Unità, il PD no ad alleanze con il PDL, Avvenire l'azzardo di Bersani, mentre il Manifesto mette in prima pagina Hugo Chavez, scomparso ieri, al diavolo, questo è il titolo con punto esclamativo, era un demonio perché ha curato e alfabetizzato 2 milioni di poveri senza diritti. Questa è la scelta del Manifesto. Voglio partire, come detto, noi ci concentreremo alle 8:30 sulla vicenda che ci porterà all'elezione poi del nuovo Papa, il conclave e gli scandali che emergono in questi giorni sull'accusa di avere coperto anche nuove violenze pedofile all'interno della Chiesa che coinvolgono per esempio alcuni cardinali. Tra poco i giornali pubblicano anche dei nomi precisi. Intanto voglio proporvi a questo punto di vista due articoli. Un'intervista in prima pagina di Repubblica, intervistato da Marco Ansaldo, parla quello che viene definito una delle gole profonde dei dossier di WatiLeaks. Insomma, un corvo, oppure un ex corvo, come si presenta lui, e dice: in curia ci sono altri 20 corvi e dunque presto usciranno nuove verità. Così Marco Ansaldo intervista questa persona, incontrandola in un bar ai Parioli a Roma, lontano dal Vaticano da occhi indiscreti. L'intervista la trovate, inizia in prima pagina e poi a pagina 15. Non riusciranno a insabbiare tutto dietro WatiLeaks, siamo in 20 e molte verità devono ancora uscire. Sono un ex corvo, così si presenta. Non ci sono più papi da difendere, verità da far emergere, tutto nel rapporto segreto compilato da tre cardinali anziani. E cosa c'è dentro? Chiede Marco Ansaldo. So qual è stata la metodologia e lo scopo di questa relazione. I documenti fuoriusciti avevano portato un'atmosfera di tutti contro tutti in curia e il Papa voleva capire cosa stesse succedendo e se il malumore che aveva spinto quelle persone a utilizzare il suo maggiordomo fosse stata la molla di un disagio più grande. Poi dice questa persona, ovviamente anonima: è verissimo, c'è in quel rapporto anche la storia della lobby gay in Vaticano, altro che potrei fare nomi e cognomi di cardinali e monsignori, vescovi e funzionari, dai piani alti della segreteria di Stato a dicasteri di prima fila. Cos'altro c'è in quel rapporto? Sono questioni finanziarie legate allo IOR. Benedetto confidava moltissimo nell'operazione di trasparenza che poteva fare Ettore Gotti Tedeschi e nel momento in cui questi fu sfiduciato ne chiese le ragioni. Le risposte furono insoddisfacenti. La sua reazione fu di aprire una commissione d'inchiesta che facesse piena luce. Poi dice: usciranno presto altri documenti, potrebbe anche uscire un altro libro di Gianluigi Nuzzi, sapete, giornalista che già ha scritto 2 libri sul Vaticano. Questo Corvo dice sì, altri documenti in possesso. A proposito dell'altra vicenda, cioè la presunta copertura da parte di alti porporati, di cardinali, su vicende legate ad abusi sessuali, sapete che già il cardinale Keith O'Brien scozzese rinuncerà al conclave, ha ammesso di avere avuto delle condotte sessuali non opportune. C'è la polemica sul cardinal Mahone, che invece parteciperà al conclave. Lui è stato accusato di aver insabbiato vicende di abusi sessuali alla diocesi di Los Angeles. Ora addirittura ci sono 12 nomi, così almeno li fa l'associazione SNAP, Survivors Network of Those Abused by Priests, cioè insomma un netto, la rete di sopravvissuti degli abusi di preti. Sono arrivati i loro rappresentanti a Roma con una, quella che viene definita già dai giornali, la sporca dozzina. Foto e nomi, accuse quindi a cardinali, anche cardinali importantissimi, Tarcisio Bertone, Peter Turkson, Timothy Dolan, americano, Angelo Scola, arcivescovo di Milano, Norberto Carrera del Messico, Oscar Maradiaga dell'Honduras e anche altri accusati a vario titolo di avere in qualche modo coperto abusi sessuali. E tra l'altro, scrive il Secolo XIX, una vicenda che riguarda da giorni il cardinale ex arcivescovo di Savona Domenico Calcagno, con la petizione anche a dire non partecipi al conclave, scrive il Secolo che emerge un nuovo scandalo: rimuovete quel prete, in seminario abusava di noi, esplode un nuovo caso, scrive Silvia Campese. Si tratta di Don P, viene identificato così solo con la lettera iniziale, verso cui è stato avviato dalla Procura di Savona un procedimento penale modello 45, poi archiviato per prescrizione dei fatti, perché questa persona, questo sacerdote che ancora oggi esercita all'interno della diocesi di Savona, accusa ora una persona che è diventata adulta e dice: quando entrai in seminario a 12 anni tra il 1974 e 75 cercò di farmi violenza da quando ero bambino più volte. Così racconta un ex seminarista. Insomma, ora racconta anche il Fatto Quotidiano: pedofilia, quanti impresentabili, le vittime statunitensi, dice, in 12 dovrebbero dimettersi, e ci si concentra anche sulla vicenda del cardinale Domenico Calcagno, chiamato a rispondere di quando era vescovo di Savona e di una lettera da lui inviata all'allora prefetto del Sant'Uffizio, era il cardinal Ratzinger, poi diventato papa, per chiedere consiglio su come trattare un prete pedofilo recidivo. Scrive Marco Politi, vaticanista del Fatto Quotidiano: è lampante anche in questa lettera nel rilevare come l'obiettivo primario sia di non fare trapelare il crimine all'opinione pubblica. Comunque noi ne parliamo alle 8.30, avremo Lucetta Scaraffia, professoressa e anche editorialista dell'Osservatore Romano. Avremo anche con noi la persona che denuncia il cardinale Calcagno e che sta raccogliendo una petizione di firme perché il cardinale non partecipi al conclave. Questo più avanti, ora ci fermiamo per la pubblicità del meteo e poi ripartiamo ovviamente dalla politica. Allora, ci sarà un modo per attuare questo unico piano da parte di Bersani per formare un nuovo governo? Chi lo sa? Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora, alle 7.36 minuti, ieri la giornata è stata segnata politicamente certamente dal fatto che c'è stata la direzione del Partito Democratico con la relazione, la proposta del segretario Bersani, questi 8 punti che oggi il Sole 24 Ore riepiloga a pagina 8, vale a dire sui conti pubblici e l'austerità, correggere le politiche europee di stabilità, oppure sulle misure per il sociale e il lavoro, pagamenti della pubblica amministrazione con titoli di Stato, il programma di banda larga, la riduzione del costo di lavoro stabile, la riduzione dei costi della politica, come il dimezzamento dei parlamentari, l'abolizione delle province. Qui fatemi fare una pausa drammatica, teatrale: l'abolizione delle province, insomma, non si può neanche più sentire. la giustizia ed equità, la proposta del PD sulla giustizia, insomma questi 8 punti, l'economia verde, le unioni civili, gli immigrati, l'istruzione, la ricerca. Su questi 8 punti il Partito Democratico con Bersani ha ottenuto la relazione l'unanimità, e quindi si procederà così. Vuol dire, alle consultazioni Bersani dirà: questi sono gli 8 punti, caro presidente Napolitano, se intendi affidarmi l'incarico per formare il governo, cercheremo su questi 8 punti una alleanza numerica per ottenere la fiducia al Senato e alla Camera. L'ok del PD, Emilia Patta, così sul Sole 24 Ore: nessun piano B e mai con il PDL. Ecco, questi sono gli altri 2 punti che ha detto Bersani. Infatti piano B, o meglio nessun piano B, è un po' il mantra uscito da questa assemblea, e soprattutto l'ha ribadito Bersani: mai l'unione con il Popolo della Libertà. Dunque l'unica strada strettissima percorribile è quella di un'alleanza con i voti del Movimento 5 Stelle. Poi in serata Bersani ha chiamato Napolitano per illustrare questa strategia. Il Colle tiene aperte altre strade, scrive a pagina 9 del Sole 24 Ore sempre Lina Palmerini. Questa volta è stata una telefonata ufficiale di Pierluigi Bersani a Napolitano al termine della direzione del PD. Tra l'altro c'era, scrive Palmerini, anche un po' da ricomporre il rapporto tra i due. Perché? Perché nei giorni scorsi il ruolo che il leader del Partito Democratico aveva affidato in alcune dichiarazioni a Giorgio Napolitano sembrava un po' avere arginato il Presidente della Repubblica, perché con quel suo ultimatum, o governo con Grillo o elezioni subito, proprio dopo che Napolitano aveva detto di voler dare un governo al paese, c'era un qualche modo, secondo alcuni rumors, un po' di maretta, perché Bersani aveva un po' limitato il ruolo di Napolitano, che è lui in primo piano a gestire la situazione dal punto di vista istituzionale. Ieri quell'ultimatum è sparito, non si è parlato di elezioni subito. Nella sua replica finale Bersani ha pronunciato le fatidiche parole: ci rimettiamo con fiducia al lavoro di Napolitano. Ecco, questo è un modo anche per ricomporre. Secondo un retroscena a firma Goffredo De Marchis e Umberto Rosso su Repubblica: se il leader fallisce, avanti una donna. Il PD vuole evitare un altro tecnico. Non si capisce perché questo titolo, proprio avanti una donna. In ogni caso, questo è il nome, sarebbe, oltre al nome di Fabrizio Barca, che sapete io su Twitter è quello per cui ho giocato 5 centesimi, ho puntato 5 centesimi, secondo me sarà il prossimo Presidente del Consiglio, Fabrizio Barca, attuale Ministro, si vocifera anche, se dovesse fallire Bersani, la mossa del Partito Democratico sarebbe un volto femminile, il pensiero corre subito ad Anna Finocchiaro, così almeno in un retroscena di Repubblica. Che ne pensate, cari italiani? Anna Finocchiaro come possibile alternativa a un piano B fallito. Oggi, per la verità, Barca viene messo in titolo di pagina 3 anche dal Corriere della Sera: ipotesi primarie con Renzi e Barca. Cioè si guarda già al domani. Maria Teresa Meli racconta che dei due protagonisti del futuro del centrosinistra, uno era assente, cioè Barca, alla riunione della direzione del PD ieri, perché non ha nemmeno la tessera del partito in tasca. L'altro invece ha timbrato il cartellino per pochissimo tempo, poi se n'è andato via. Ma sono Matteo Renzi e Fabrizio Barca, scrive il Corriere, i possibili sfidanti delle primarie che verranno. Questa è almeno l'analisi del retroscena che trovate a pagina 3 del Corriere della Sera. A proposito di uno dei protagonisti citati, Matteo Renzi oggi fa un'intervista al Messaggero, intervistato da Barbara Yerkov. A pagina 5, scusate, a pagina 3 trovate l'intervista. Sull'incarico decide il Colle, leali, ma il PD deve cambiare. La prima domanda è questa: cioè lei, Renzi, è andato alla direzione del PD, ma dopo un po' che ha sentito se è preso e se n'è andato via. Non sono abituato a partecipare alle liturgie del partito, anche perché da sindaco sono impegnato con cose più concrete. Ecco, questa è la prima mazzata che dà Renzi alla dirigenza del PD. Mi sembrava indelicato non partecipare proprio oggi, ma quello che avevo da dire l'ho già detto. Ci vuole un partito diverso, il modello di partito solido, vecchia maniera, è stato profondamente messo in discussione. Ci vuole un partito che fa a meno del finanziamento pubblico, sarebbe un segnale molto importante. Le 8 proposte di Grillo, non c'è bisogno di uno che faccia il controcanto. È noto che su alcuni temi sarei molto più tranchant rispetto a Pierluigi, sul finanziamento pubblico appunto, ma anche sul ricambio del gruppo dirigente, sul tema dell'innovazione tecnologica, su tutto quello che si chiama Freedom Information Act, ma oggi non mi pongo come l'anti Bersani. Oggi io e tutti gli altri facciamo la nostra parte perché il nostro tentativo vada bene. Però a un certo punto Matteo Renzi dice: mi limito a dire che questa legislatura ha tutte le caratteristiche per battere tutti i record di durata in negativo. Insomma, Matteo Renzi ormai è un po' il balletto della politica, ma che si scalda. Tra l'altro Federico Geremicca, sempre un retroscena sulla Stampa, fa notare che il fatto che Renzi abbia lasciato la sala in anticipo, tra l'altro attribuendogli questa frase "così non cambieremo mai", ha creato un po' di scalpore, nuova maretta. È successo, è un nuovo piccolo grande caso. Certo, c'è molto di studiato, scrive Geremicca, nella mossa con la quale Matteo Renzi ha deciso di riprendersi un po' di titoli di giornali, abbandonando senza nemmeno intervenire la direzione del PD. Evitare il rischio, per esempio, di finire ritratto in quella sconsigliabile sorta di album Panini della nomenclatura democratica. Ma c'è anche molto di niente affatto studiato, cioè di assolutamente incontrollabile, come un'allergia, un prurito tremendo che resisti, ma alla fine ti devi grattare. Così Renzi ha resistito, ma poi, appena finito l'intervento di Franceschini, non ha retto più. Ha girato le spalle, si è alzato e se n'è andato, percorrendo i pochi metri che separava il fondo della sala all'uscita della sede del Partito Democratico. Insomma, mossa mediatica, ma anche, come ha confermato lui stesso al Messaggero, una quasi idiosincrasia queste liturgie di partito. Insomma, mentre la politica si interroga su questo, c'è anche il caso di Livia Turco, che è uscito sui giornali. Livia Turco, che non più candidata, dice torno a fare la funzionaria del PD. Ieri è stata attaccata per esempio da Francesco Russo, che è un neo senatore eletto in Friuli del Partito Democratico, che ha detto: ma insomma, prima di pensare a Livia Turco pensiamo agli esodati. Ecco qua, si conquista un titolo di Repubblica: stipendio alla Turco, prima gli esodati. E ora questo senatore dice: io non ce l'ho con Livia Turco, non è una cosa personale, ma insomma il partito deve pensare prima a cose ben più importanti, trovi una soluzione per tutti gli esodati e poi pensi a dare uno stipendio anche a Livia Turco. Peraltro questo senatore dice: io comunque, da quanto so, alla fine il suo incarico, cioè l'incarico a Livia Turco, credo sia stato congelato. In ogni caso, mentre la politica litiga e ce n'è ancora, il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi fa anche un'intervista al Messaggero, intervistato a pagina 7, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, dice: senza un governo che decide è a rischio la ripresa ad autunno. Intervistato da Osvaldo De Paolini, dice: taglia la politica, legge sul conflitto di interesse, un'altra legge contro la corruzione, tutte cose importanti, necessarie, ma in questo momento la priorità è l'economia. La politica sembra averla dimenticata, presa com'è dai giochi di posizione, dopo un dopo elezioni del quale non si vede lo sbocco. Ma come si fa a non capire che la priorità assoluta per l'Italia è l'economia? Non possiamo assolutamente permetterci di anteporre tattiche, impuntature personali alla necessità di un governo, subito. Così, preoccupato, viene definito dal Messaggero Giorgio Squinzi, di questo passo andremo a sbattere prima di quanto pensiamo. Ci stiamo auto-escludendo dall'Europa, i margini per intervenire si vanno riducendo e temo che alla fine sarà perfino difficile agganciare la ripresa. Dice poi, nei confronti del Movimento 5 Stelle, il loro programma si connota per misure troppo modeste a favore della crescita. Non troviamo interventi urgenti con impatto immediato, come viene invece proposto nel progetto Confindustria e come sarebbe necessario. E insomma, dice poi Giorgio Squinzi, andare a votare sarebbe davvero un disastro nuovamente. E gli altri che fanno? Che fa Monti? Che fa Berlusconi? E che fa soprattutto Zingales? Attenzione, torna a parlare, lo fa per la prima volta Zingales, si racconta in retroscena della sua rottura con Fare per fermare il declino e con Oscar Giannino. Da qui ripartiamo dopo il traffico. Allora, Monti, il premier, ieri ha parlato per la prima volta in maniera ufficiale e ha detto no a un governo anti-europeo. Riferito al Movimento 5 Stelle, ha detto Monti: nessuna forza politica, nemmeno quella che si è più affermata, e cioè il Movimento 5 Stelle, appare neanche lontanamente in grado di risolvere i problemi del paese. Scrive il Corriere, PD incluso. Insomma, piuttosto che un governo anti-europeo, Monti dice meglio votare. per Stefano Feltri sul Fatto Quotidiano viene dipinto così: Monti si rimette il Loden col sogno segreto del Colle. A questo proposito, sulla situazione davvero di stallo incredibile, segnalo l'articolo editoriale, l'editoriale di Giovanni Sartori in prima pagina del Corriere della Sera. Il titolo è Il firmamento dei sogni costosi. Si dedica soprattutto a Beppe Grillo. Grillo, dotato, scrive Sartori, oltre che di eccezionale bravura scenica, di straordinaria furbizia, finita la campagna elettorale, fa notizia stando zitto. La pubblicità se la fa fare gratis, rifiutando di parlare alle TV e giornalisti italiani. Sia chiaro, non è che Grillo si neghi a tutti, ai giornali e alle TV del resto del mondo parla, a noi no, perché siamo corrotti, venduti e infidi. Se io fossi un giornalista ricambierei la scortesia: se lui non vuol parlare con me, nemmeno io voglio parlare con lui né di lui. Invece ho visto decine e decine di operatori delle TV accalcati, imploranti di fronte alla sua porta inesorabilmente chiusa. Così ottiene pubblicità gratis e non corre rischi. Poi, parlando un po' del programma, scrive Sartori: andiamo male per la proposta pericolosamente demagogica di sottoporre a referendum la nostra appartenenza all'euro. Tecnicamente non si può fare, perché la creazione dell'euro discende da trattati internazionali, per altre ragioni ancora che Grillo probabilmente non conosce. Ci sono poi tutte le richieste proposte economiche. Grillo propone un reddito del cittadino da 1000 euro al mese, nel conteggio Istat i disoccupati sono circa quasi 3 milioni, il che comporterebbe una spesa annua di 36 miliardi di euro. Ma il conteggio dei disoccupati è notoriamente difficile: sono soltanto coloro che hanno perso il lavoro e che non ne trovano un altro. I 3 milioni di qui sopra includono i cassi integrati, ma poi ci sono quasi il 40% di giovani disoccupati. L'altro versante del problema: abbiamo un debito pubblico vicino al 130% del PIL, e che con lo spread che torna ad allargarsi comporta un costo di interessi sui nostri buoni del tesoro che diventa insostenibile. Tutti questi soldi Grillo dove li troverebbe? Io non lo so, ma non lo sa nemmeno lui. Così Sartori. Ma insomma, è il momento anche delle critiche, dei posizionamenti. Intanto torna a parlare, lo fa per la prima volta, il professor Luigi Zingales, colui che ha creato, ha fatto emergere la vicenda Oscar Giannino, intervistato da Federico Fubini sul Corriere della Sera. Io leader di Fare, se me lo chiedono non lo escludo. Racconta un po' la vicenda. Io non mi ero mai preoccupato se avesse un master o no Giannino, per me questo non è quello che conta, il punto è avere mentito, il mio errore è stato non avere controllato, non avere fatto la due diligence, come insegno ai miei studenti. La prima volta che ho avuto un dubbio è stato il 12 febbraio, quando mi è arrivata una mail dall'ufficio stampa di Booth, diceva che un giornalista italiano si stava occupando di una voce di Wikipedia secondo cui Giannino ha un master. Poi giovedì 14 sono sobbalzato, ho chiesto conferma alla mia università che non avesse quel titolo, poi ho parlato con le persone con le quali ho più dimestichezza nel movimento, ho scritto a Giannino per chiedere chiarimenti. Il primo giorno Oscar non mi ha risposto, gli altri minimizzavano. Insomma, qui poi Zingales dice: a un certo punto mi illudevo che potesse essere un fatto positivo chiedere a Oscar Giannino di ammettere gli errori, eventualmente lasciando avremmo mostrato che siamo un movimento serio e trasparente, ma lui ha rifiutato di ammettere qualsiasi cosa. Gli ho chiesto di lasciare che un gruppo di persone decidesse sul da farsi e Giannino mi ha risposto: non interrompo la campagna elettorale per farmi giudicare da un sinedrio. A quel punto non ci ho visto più. Insomma, così Zingales ricostruisce la sua versione, la vicenda delle false lauree, del master di Giannino. E poi dice: non escludo di fare il leader di Fare, e mi dispiace per il gioco di parole, di diventare il leader di Fare, ma se me lo chiedono non lo escludono. Così Zingales. In questa pazzia della politica c'è anche questa. Voi la credete, cari ascoltatori, ve la dico, sembra l'inizio di una barzelletta, ma non è così. Io, Mastella e la CIA. Sergio De Gregorio. Io, Mastella e la CIA. Così facemmo cadere il governo Prodi. De Gregorio: la CIA mi chiese di scaricare Prodi insieme a me e a Mastella. Trovate sul Secolo XIX e su Repubblica. Io, Mastella e la CIA per fare cadere Prodi. Vabbè, passiamo, anche se in rapida conclusione, alle due notizie di cronaca più evidenziate sui giornali. La prima è quella del suicidio del responsabile della comunicazione del Monte Paschi Siena, David Rossi. Ha lasciato, pare, un biglietto: ho combinato una cavolata, destinato alla moglie. Montepaschi si suicida, David Rossi, così titola pagina 5 il Sole 24 Ore con l'articolo di Cesare Peruzzi, che scrive: evidentemente non ha retto alla pressione degli ultimi mesi, non era neanche indagato, ma ha subito una perquisizione qualche giorno fa e ieri alle 21, invece di tornare a casa, dalla moglie Antonella ha aperto la finestra che guarda sul retro di Rocca Salimbeni e si è buttato nel vuoto. La perquisizione all'abitazione ordinata dai magistrati 2 settimane fa era stato un colpo duro dal quale stentava a riprendersi sul piano emotivo, perché a dispetto del carattere spigoloso, Davide era una persona sensibile, un uomo introverso e sensibile che ha pagato per colpe non sue con questo gesto clamoroso. Insomma, ci sono tante ricostruzioni, davvero una cosa tragica come quella che è avvenuta in Umbria, dove un uomo che tra l'altro ora si scopre era in cura psichiatrica, aveva un porto d'armi, e bisognerebbe capire anche come siano compatibili queste due cose. È andato in regione e, dicendo mi avete rovinato, ha ucciso 2 dirigenti della regione Umbria e poi si è tolto la vita. Tra l'altro vi segnalo sul Quotidiano Nazionale, questa persona aveva fatto un'intervista a due studenti della scuola di giornalismo RAI di Perugia qualche mese fa con uno sfogo: sono stato massacrato dalla burocrazia e da allora sono caduto in depressione. E poi questo gesto di ieri. Vabbè, chiudo con una battuta. La principessa Kate ha fatto un lapsus, le hanno dato in mano un orsacchiotto e lei pare che abbia detto grazie, lo terrò per mia figlia. E poi si è fermata, si è tradita, forse ha detto il sesso della futura erede. Per mia figlia. E poi, ma allora sua figlia? No, non lo so. Si è tradita. Il lapsus di Kate. Pare sia femmina. Il giornale radio.